fino in fondo, fino alla fine, e riprendiamo, come si diceva, quel duo di bianchi del sud-est che normalmente fa bluegrass, che in questo caso ha fatto un album di duetti country e, come dire, manca un pizzico di rock and roll. Avevamo ascoltato due o tre ore fa All I Have to Do Is Dream, ricordate? Ecco, sentite questo blues acustico quanto è bello, sentito a Love, Sweet Love, Josh Groh e David McLaughlin. 1, 2, 3, 4. Don't need a dime, long as I know your sweet love is mine, 'cause love, sweet love means more to me than gold. Love, sweet love can satisfy my soul. Detto che era bella ed è così, con due chitarre e due voci, niente di più. E che serve di più? Che serve di più? Allora, abbiamo ascoltato Jerry Lee Lewis stasera? Sì, allora bisogna ascoltare anche Moon Mullican. Moon Mullican è stato uno che ha cominciato con il western swing molto presto e poi quando è arrivato, è passato anche dal honky tonk, quando è arrivato il rock and roll si è adattato molto bene, si è adattato così bene che ha inciso alcune canzoni che sono rimaste un po' nella storia non letta a scuola, è una... Sono storie che vengono lette da, soltanto dagli appassionati, ma sono storie che vengono scritte sui libri. Ci sono tanti libri, andate a farvi un giro su internet e ci sono dei libri in vendita che si possono ricevere dagli Stati Uniti, comunque via posta, perché sconsiglierei, ahimè, l'acquisto. E ho notato che l'acquisto di un libro in Italia con il ricarico e tutto il resto è decisamente più alto, mi spiace dirlo per i nostri cari librai, ma certi acquisti di libri dedicati al rock acquistati appunto via internet sono molto più convenienti. Fatto sta che Moon Mullican ha trovato molto spazio nei libri di storia del rock and roll proprio perché è stato un musicista seminale, o perlomeno ha traghettato il blues, il boogie dei neri verso il country e quindi il rock and roll. Lo ascoltiamo in una incisione della King Records, nota etichetta che pubblicava dischi sia di rock and roll che sia di rock and roll bianco e country che di blues, e lo ascoltiamo nel 1956, lui, Moon Mullican, grande ispiratore di Jerry Lee Lewis, è annoverato tra intervista rilasciata dallo stesso Jerry Lee Lewis, annoverato dal killer di Ferry Day, Louisiana, come uno dei suoi grandi padri. ispiratori. Rock and Roll, Mr. Bullfrog e Moon Malika. Way down yonder in a great big lake, sitting on a lily pad, a big bullfrog about 2 feet long, they called him old granddad. Well, he raised his right foot in the air and said, children, gather round. We gonna rock and roll tonight before the moon goes down. Pass me the jug, pass it up and down. We gonna rock and roll tonight before the moon goes down. Now all the little frogs, they took them a seat. Wait for Grandpa to give the beat. He ran right back and he raised his head, and this is what he said. Pass me the jug, pass it up and down. We gonna rock and roll tonight before the moon goes down. This great big lake, sitting on top of a log, there happened to be a hungry coon, and he spied old Grandpa Frog. Well, he eased on around the edge of the lake and says, there's my supper, make no mistake. He jumped on top of Grandpa's back and started to take him a whack. Well, Grandpa said, hold it, wait a minute, Mr. Coon. Just before you get your kicks, let me rock by the light of the moon. So pass me the jug, pass it up and down. We gonna rock and roll tonight before the moon goes down. Well, I've lived my life and I've had my fun, and before you eat me, you son of a gun, there's just one thing I'd like to know. I hope I make you sick by Joe. So pass me the jug, pass it up and down. We gonna rock and roll tonight before the moon goes down. Well, we gonna rock and roll tonight before the moon goes down. Rock and roll, rock and roll, Mr. Bullfrog. Era quindi Moon Mullican nel lontano 1956. E mentre il Faulisi vi parla, ma ve ne sarete accorti anche voi, le prime luci dell'alba ci accolgono in questa nuova giornata. Sì, grande questa lunga nottata che... Ah, a proposito, è arrivato un altro messaggio. Non è una dimenticanza. È che fa compagnia ai cagnolini rimasti a casa ed è bello tornare con questa accoglienza. Questa è Sissi che ci comunica che lei, la radio, la lascia a casa accesa per far ascoltare un po' di per fare compagnia ai cagnolini. I cagnolini amano ascoltare Good Rockin' Tonight. Blue Moon. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. You suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. I whisper, won't you please adore me? My blue moon turn to gold. Blue moon, now I'm no longer a lover, without a dream in my heart, without a love of my own, of my own, of my own, of my own. I'm in the mood for love. Thank you.

Billie Holiday, che voce ragazzi, che voce, poi ascoltata a quest'ora del mattino, ha una gran bella presa. Sta arrivando un treno da Genova, un treno da Genova che si chiama Mystery Train, è un classico del rock and roll anche questo, del rockabilly, è una canzone che la vogliamo ascoltare da un cantante genovese veramente forte e accompagnato da un chitarrista decisamente forte, tal Rocking Guitar, si presenta così. E Mystery Train, sentite quanto sono bravi, da Genova, Bob V and Rocking Guitar. Must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, why must I be a teenager in love? Ragazzi, ci stavamo dimenticando di Diane DiMucci and the Belmonts. Diane and the Belmonts è stato uno dei migliori verso la fine degli anni 50, primi anni 60, quando il rock and roll non aveva più quella grinta, quel potere rivoluzionario, mettiamola così. No, sì, ce l'aveva in effetti nei giovani dal punto di vista sociale, ha avuto quella funzione. E sono arrivati poi i giovani cantanti di pop rock, di pop, tra tutti quelli che si esibivano in quel periodo. Sicuramente Diane and the Belmonts era una delle migliori proposte. Una canzone che abbiamo ascoltato dai Di Maggio Brothers l'altra sera, quando avevo qui ospite Carmelo Genovese, ci siamo ritrovati davvero d'accordissimo nel ritenere Latin Night la canzone più bella del disco, che comunque è tutto bellissimo, When I Hit My Stride, e voglio riproporvela, sicuramente l'apprezzerete. Latin Night, sono i Di Maggio Brothers. Erano i Di Maggio Brothers con When I Hit My Stride, tratto dall'album When I Hit My Stride, un album al quale io sono particolarmente affezionato, e chi lo possiede sa bene perché in qualche maniera sono stato coinvolto nella produzione di questo album e ne sono davvero tanto orgoglioso. Sono stato coinvolto anche Greg è stato coinvolto nell'organizzazione nella produzione di questo album, un album che gli stessi Di Maggio Brothers ammettono essere una delle cose più belle che abbiano mai prodotto, e vorrei tanto immaginare che ognuno di voi prima o poi nella vita possa mettere le mani su questo disco. Abbiamo ascoltato Latin Night e ora è il momento di Bobby Darin. Così, è una canzone di Ray Charles e la canzone era intitolata The Right Time. Bella anche questa versione, la versione di Bobby Darin. Bobby Darin iniziò negli anni 50 con canzoncine come Queen of the Hop, Splish Splash e Dream Lover e così via, ma poi passò a cose un po' più serie, insomma, e fino poi a sfociare la sua arte, farla sfociare in quello che è il jazz. Lui divenne un crooner non di pari livello di che dire, il grande Frank Sinatra o Perry Como, che ne so io, ma comunque certamente uno dei più apprezzati. Bobby Darin ha avuto una carriera che poi si è conclusa tragicamente, nel senso che è morto prematuramente. E ora ci ascoltiamo una canzone invece da un sestetto di San Francisco che, fortuna vuole, godono di buona salute e continueranno, voglio sperare, per lungo tempo a incidere dischi. Si chiamavano The Swing Session e in questo album si chiamano Swing Session, ma poi cambiarono nome da qualche tempo dopo non me lo ricordo più. Alle 6 può succedere. Oh, Stompy Jones, ecco, me lo sono ricordato. My lovin' baby been gone 5 months, 2 weeks, 2 days. My lovin' baby been gone. If you see my baby, please send it home to me. Hurry, oh, oh, baby. Hurry, oh, oh, baby. Hurry, oh, oh, baby. Hurry, oh, oh, baby. Hurry, oh, oh, baby. Hurry, oh, oh, baby. Sì, sì, i Swing Session poi hanno trasformato la loro denominazione in Stompy Jones. Sì, signori, proprio così, proprio così. Va bene, abbiamo ancora 2 ore davanti a noi e queste 2 ore, quest'alba che ormai ha preso il sopravvento, la luce è più forte, la notte ce la siamo lasciata alle spalle, il rock and roll continua dalle frequenze di Rock FM. Maurizio Faurisi, nonostante tutto, grazie anche all'approvvigionamento dei suoi amici che lo hanno sostenuto durante la notte, va avanti. È arrivato un messaggio un po' di minuti fa e lo leggo soltanto adesso. Caro Maurizio, vorrei approfittare di questa lunga diretta per un consiglio. Vorrei avvicinarmi alla musica e alla cultura rockabilly e a tutto quello che è anni 50. Avresti qualche lettura o qualche sito da consigliarmi? Grazie ancora per la musica rock and roll. Giacomo, si chiama Giacomo. Allora, che dire, è infinito, cioè sarebbe... sicuramente dovresti abbonarti o provare a sfogliare la rivista Jamboree, che è una rivista italiana, quindi non è senza grosse difficoltà di stare lì a capire le lingue straniere. Una rivista che tratta proprio questi argomenti, anni 50 e anni 60. Poi internet ti è d'aiuto, insomma, internet è infinito. Se vai in un sito come può essere All Music, vai a scoprire, ci sono le liste dei musicisti più rappresentativi e poi da lì parti ed è un mondo tutto da scoprire. Tienti pronto a vivere un'avventura infinita, perché ci sono delle bellissime cose che man mano che si scoprono ci si rende conto che non finiscono mai, semplicemente. Per esempio, Little Willie John è un personaggio che non è famosissimo, eppure se si ascoltano canzoni come queste vi rendete conto della importanza che ha avuto anche lui nello sviluppo della storia del rock. Little Willie John, lo ascoltiamo con Fever. Your arms around me. so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever. You give me fever. Con Fever, sì sì, proprio quella Fever lì, quella di Elvis Presley, ma anche di Bruno Lauz in versione italiana. Ok, dopo tante notti a fare pane, questa, dopo la brutta notizia, è la migliore. Cosa vuol dire Francesca e Pierino, cosa vogliono dire? Oltre ai ringraziamenti che io ringrazio, anzi se mi indicate il vostro negozio vengo a mangiare un panino caldo da voi fra poco. Allora, vuol dire che loro lavorano di notte e dopo tutte le notti che hanno passato ad ascoltare Rock FM, questa evidentemente dalla brutta notizia, da quando è stata data la brutta notizia della chiusura, pare che loro l'abbiano giudicata la migliore. Evidentemente sono anche loro affezionati al suono anni 50 e allora farà piacere anche a Francesca e Pierino, così come a Daniele di Firenze, ascoltare un bel pezzo di Big Joe Turner. The Chicken and the Hawk. Well, a girl-head chicken fell in love with a chicken hawk. Well, a girl-head chicken fell in love with a chicken hawk. He fell head over heels for that hawk sweet talk. He said, take me up, hawky, take me up in the sky. Take me up, hawky, take me up in the sky. I'm just a little bit of chicken and I don't know how to fly. Jet. Well, a hawk got flying like a big single jet. He said, cool down, chicken, the eagle ain't got it yet. He said, up, up and away, we gonna fly all day. Up, up and away, we gonna fly all day. Up, up, up, up and away. Big Joe Turner. Big Joe Turner, una delle più importanti figure della storia della musica americana, musica boogie, un po' di swing, faceva un po' di ma soprattutto di rhythm and blues. Accompagnava, cioè veniva accompagnato da pianisti boogie importantissimi degli anni 30, Pete Johnson, se non vado errato. Poi, avvicinandosi al periodo del rock and roll, ovviamente ha cominciato anche lui a fare quello che facevano tanti, solo che quelli che facevano gli altri avevano 20 anni e lui ne aveva già una quarantina. Big Joe Turner urlava come un pazzo, uno dei più grandi shouter di tutti i tempi. Lo abbiamo ascoltato in uno dei suoi classici. Le altre sono Shake, Rattle and Roll, Flip, Flap and Fly, eccetera eccetera. Un personaggio sicuramente meno noto, e insomma anche perché dal punto di vista così artistico ha scritto qualcosa di molto meno importante di Big Joe Turner, e Jimmy Rogers. Di quale Jimmy Rogers stiamo parlando? Perché di Jimmy Rogers ce n'è un po'. Ce n'è uno che faceva country music, the father of country music, anni 30, anni 20, 30, e poi ce n'è un altro che fa blues, e poi ce n'è uno, Jimmy Rogers Sweeter Than the Wine, è il titolo di questo disco, The Very Best of Jimmy Rogers, dal 1957 al 62. Ho trovato questo disco, l'ho acquistato perché ho detto con stupore, perché pensavo che, a parte Honeycomb, non avesse fatto grandi cose, o comunque non avesse addirittura fatto altro. Pensavo fosse una delle tante meteore che hanno caratterizzato gli anni 50. E invece un bel po' di canzoni. Questo CD ne contiene addirittura 26, quindi vuol dire, da lì ho scoperto che Jimmy Rogers, insomma, un po' si è divertito negli anni 50 a fare musica. Lo ascoltiamo con il suo grande successo, Honeycomb. Well, I guess I was very, very lucky with my very first record, which was Honeycomb, and ever since then the records, I'll Knock Wood, have been selling better than I could ever have expected. Honeycomb, honeycomb. Well, it's a darn good life, and it's kind of funny how the Lord made the bee, and the bee made the honey, and the honey bee looking for a home, and they call it a honeycomb, and they roam the world, and they gathered all of the honeycomb in the one sweet fall, and the honeycomb from a million trips made my baby's lips. So honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, and made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like a honeycomb. Honeycomb. And the Lord said, now that I made a bee, I'm gonna look all around for a green, green tree. And he made a little tree, and I guess you heard up then, well, he made a little bird, and they waited all around until the end of spring. I guess every note that the birdies sing, and they put them all in the one sweet tone for my honeycomb. Oh, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, and made a walking, talking honeycomb. Well, the honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like a honeycomb. Honeycomb. And the Lord said, now that I made a bird, I'm gonna look all around for a little old word. It sounds about sweet like a turtle dove, and I guess I'm gonna call it love. And he roamed the world, looking everywhere, getting love from here, love from there. And he put it all in a little old part of my baby's heart. Oh, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, and made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb. Honeycomb. Honeycomb. Era Jimmy Rogers, anche lui, personaggio minore, ma comunque che rispondeva dal punto di vista stilistico a quelle che erano, insomma, le caratteristiche del periodo, un cantreggiante, un country decisamente anni 50. E ora a questo punto possiamo tornare al rock and roll sfrenato che ha invece caratterizzato l'inizio della trasmissione, gran parte della trasmissione, l'inizio particolarmente perché siamo partiti a bomba, ma poi è stato un excursus veramente infinito questa lunga notte di Good Rockin' Tonight che non si conclude prima delle 8, quindi abbiamo ancora un po' di tempo con noi e tornano, signori miei, tornano gli Stray Cats. Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye. Bye, baby. Bella lì, questi che si telefonano, Johnny, ti chiamo domani, va bene, va bene. Questa era un'altra canzone tratta dal disco già maneggiato questa notte di Johnny Otis, sì, perché Johnny Otis, come dicevo un po' di tempo fa, è stato un grande produttore, quindi le raccolte di Johnny Otis comprendono anche i musicisti che è del suo entourage, sono quanto mai vari. Invece il cofanetto di Phil Spector, nonostante contenga la musica di un gran numero di musicisti, la musica è molto simile. Perché? Perché l'impronta stilistica di Phil Spector era incredibilmente caratteristica che diciamo che plasmava e trasformava il suono dei gruppi, ecco, non c'era possibilità di equivoco. Quando ascoltavi una canzone prodotta da Phil Spector ti rendevi conto che c'era davvero il suo zampino. Giù il cappello a Phil Spector, perché negli anni 60 ha fatto davvero delle cose spettacolari, tipo questa, Da Do Run Run. Facevano parte della scuderia di Phil Spector, erano proprio loro, le Crystals. Rimaniamo in questo periodo e ci ascoltiamo una canzone che quando la gente ascolta, quando parte questa canzone, insomma, parte anche il sorriso e la voglia di ballare. Little Eva con Locomotion. Era il 1962, grande annata il 1962, non vi sto a dire perché. Complimenti a Daniele di Firenze che è fuori onda, ma forse se si è anche sentito, che ho celebrato. Daniele di Firenze è un grande ascoltatore. Medaglia d'oro perché dalle 22 di ieri che ascolta la radio e questa cosa qui mi fa davvero onore. Eh sì, una lunga notte quella di Rock FM, una lunga notte che non vuole concludersi, vuole andare avanti fino alle 8 del mattino, così come era stato annunciato. Maurizio Faurisi, forse con un leggero, ma quasi impercettibile riflesso un pochino più lento rispetto alle 22, e i miei compagni di stanza qui mi si stanno facendo due risate. Va avanti fino alle 8 su questi ritmi, i ritmi del rock and roll, i ritmi del danzerecci. Adesso lancio questa canzone, mi alzo dallo sgabello e naturalmente me la ballo. E quando si parla di Chubby Checker, signori miei, chi sta fermo? Chi sta fermo? Yaggity yak, yaggity yak, yaggity yak, yaggity yak.